Radio 24 Reportage. Aperitivo a Madrid di Sergio Nava. È stata, nell'ultima decade, la Mecca di tanti italiani. Quella terra promessa in grado di unire un clima e una cultura simili a quelli di casa propria, con un mercato del lavoro in crescita e dinamico, senza dimenticare un contesto sociale più libero, meno conservatore. Nell'ultima tappa dei quattro reportage di Radio 24 dedicati alla Spagna nell'anno del voto, andiamo a conoscere più da vicino la nostra comunità di residenti nella penisola iberica. Quella italiana è la terza comunità europea di espatriati in Spagna, dopo quella rumena e inglese. I nostri cittadini registrati sono 170.000, secondo l'ultimo rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes. I connazionali sono però la prima comunità per incremento interannuale, più 12,8%. Basti pensare che se nel 2003 il numero di italiani in Spagna non raggiungeva i 60.000, in soli 7 anni questa cifra è quasi triplicata. Un boom da esodo, dove, sottolinea il rapporto, la fanno da padrone i giovani. Barcellona domina quale meta di immigrazione con oltre 40.000 italiani, seguita da Madrid con 23.000. Proprio a Madrid incontriamo 5 rappresentanti di quella giovane comunità tricolore che nella capitale iberica hanno trovato, per usare le parole del rapporto, una città vibrante, cosmopolita e di grande vivacità. Facciamo tappa per una sera nel bar Pepa Tencia in pieno centro, gestito da 2 connazionali trentenni. Uno di loro è Luca Zollino, da 4 anni e mezzo in Spagna. Ha organizzato per noi questa serata. Ho deciso di invitare diversi profili di modo che potessimo dare una descrizione a 360 gradi della situazione, delle esperienze personali e professionali. E sì, ho invitato amici, conoscenti qua in questo locale. Che tipo di italiani ci sono a Madrid? Gli italiani che sono qui è una comunità molto ampia, quindi c'è di tutto. Dal giovane studente, dall'Erasmus, dal neolaureato che cerca lavoro, da chi a 30 anni per una delusione amorosa molla il paese e viene qua a cercare di ricostruirsi una vita, chi viene qui per motivi solo esclusivamente professionali, chi viene solo per lavoro e magari non ci vorrebbe venire e poi si innamora della città, o al contrario vuole non vedere l'ora di tornare, c'è di tutto. Tu hai scommesso doppiamente sulla Spagna e su Madrid, perché da un lato hai un lavoro e dall'altro hai aperto un bar. Allora è ancora un paese, una città di opportunità? Secondo me Madrid sì, assolutamente è una città di opportunità. Andiamo allora a conoscere i protagonisti di questa serata italiana a Madrid. Gaia ha 25 anni e vive qui da uno. A Madrid si sta specializzando in cooperazione, imparando nel frattempo lo spagnolo. Io sto cercando lavoro e mi sembra difficile anche qui, però adesso il pensiero di tornare in Italia non mi sfiora neanche per l'anticamera del cervello, più che altro per il clima che c'è. Cioè, in Spagna c'è ancora, o almeno a Madrid, io non so in tutta la Spagna, però a Madrid mi dà l'impressione che ci sia ancora che sia più aperto, cioè non mi dà quella sensazione di impossibilità di costruirmi un futuro che ho in Italia. Come vedi la Spagna affrontare questa crisi? Nonostante la crisi non mi dà la sensazione appunto che sia tutto morto e finito come mi dà quando sono a casa mia, cioè mi dà comunque l'impressione che ci sia ancora un filo di speranza per ripartire, mentre in questo momento pensare di tornare in Italia, cioè vorrebbe dire chiudermi in casa e non sapere più cosa fare. Però la sensazione è questa, che sia un posto, almeno Madrid, che nonostante la crisi abbia più opportunità, riservi più opportunità a chi ha voglia magari di cercarselo, di applicarsi rispetto all'Italia. Filippo ha 33 anni e lavora come project manager per un'azienda italiana. Da 5 si trova a Madrid. Gli chiediamo se la crisi abbia fatto calare il flusso di connazionali verso la capitale spagnola. Madrid forse sì, secondo me è calato, nel senso io leggo il blog di Luca e vedo che ultimamente, insomma, rispetto a 5 anni fa, 4 anni fa, c'è meno domanda di lavoro, meno gente si chiede, scrive nel blog per dire come mi potete aiutare per trovare un lavoro in Spagna. Mi sembra di notare questo. Personalmente però cosa ti tiene qui? La qualità di vita, nel senso, a qualità di lavoro qua a Milano, a Bologna, preferisco Madrid per la qualità di vita. Non è che sono innamorato della Spagna, ma sono innamorato di Madrid come città, nel senso che mi sembra di non perdere mai il tempo qua. Esco di casa e so che in poco tempo sono in un posto dove mi interessa, tipo un museo, non c'è traffico, in poco tempo sono al lavoro, mi sembra molto più comodo vivere qua, a qualsiasi ora della notte e del giorno. Come l'hai vista cambiare tu, la Spagna e Madrid? Beh, io l'ho notato molto, nel senso che quando sono arrivato mi chiamano tipo 4 volte al giorno per dei colloqui di lavoro. Quindi adesso proprio neanche l'aria, però è cambiata molto, sì, il lavoro proprio si è notato che è calato un sacco. Alessandro, anche lui 33 anni, di Ferrara, da quasi 5 nella capitale spagnola, è business developer per una società di ingegneria. A Madrid si è sposato. Io lavoro in un settore che ha preso una bastonata pazzesca, nel senso che il settore ingegneria, soprattutto a livello locale, cioè chi aveva il proprio business completamente tutto basato in quello che era il real estate, comunque quella che era la costruzione nella Spagna stessa, si è visto veramente, veramente pregiudicato. Cioè una serie di problemi per la mancanza di crediti, per la mancanza di crescita, per l'impago delle amministrazioni pubbliche soprattutto. E quindi io ho visto proprio una letterale caduta di teste. Cioè nel senso che io arrivai qua nel 2006-2007 con quella crescita del 4-5%, quella gran bolla che si stava mettendo insieme. Quelli che venivano facevano la coda per prendere il NIE, cioè il numero di identificazione di straniero. C'era lavoro per tutti, dall'Italia soprattutto amici miei architetti arrivavano a frotte, a valanghe di architetti arrivavano e guadagnavano da subito, con 27-28 anni, guadagnavano quei 2-3 mila euro dopo 4-5 anni, se erano bravi arrivavano a prendere dei gran soldi. Uno dopo l'altro se ne sono tutti dovuti andare a casa. Non consiglieresti venire adesso? Se tu vieni qua e sei uno, diciamo, bravo in quello, tutto quello che è il campo del, qua la chiamano osteleria, l'orca la chiamano, insomma, ora lì magari tu puoi anche riuscire a ricavarti uno spazio, perché comunque questo paese continua a funzionare a livello turistico, a livello di servizi, a livello, cioè è quello che lo porta avanti. Tu non torneresti in Italia, non faresti mai cambio? Il cambio lo faremo quando ci sarà un cambio in Italia. E poi c'è chi, come Claudio, 38 anni, si trova a Madrid in cerca di lavoro e ha la sua seconda esperienza iberica, 10 anni fa a Barcellona, poi un rientro in Italia che non lo ha soddisfatto per niente e infine il ritorno stavolta a Madrid. Ci spiega perché. Premettendo che nel mio settore ho molte più offerte di lavoro qua a Madrid che nella mia città, Bologna. Nel settore finanziario in Italia dovresti andare a vivere a Milano, a me Milano non è mai piaciuta e quindi ho deciso di andare all'estero, ho provato qualche paese estero e ho deciso di ritornare in Spagna. Difficoltà ce ne possono essere, però alla fine se tu trovi quello che effettivamente fa per te, difficoltà passano in un secondo piano. E qua, se uno guarda quelle offerte di lavoro nello stesso identico portale che c'è sia in Spagna che in Italia, nello stesso ambito, se guardo la mia zona sono 1 a 10 rispetto a Madrid. Come hai visto anche nello stesso carattere degli spagnoli? Si lamentano col sorriso sulle labbra. In ufficio sono lì che dicono la crisi, poi vamos de cañas, si va fuori. Io non ho mai visto una città del mondo, di tutte quelle che ho provato, a vivere con un livello di gente che esca a divertirsi ogni giorno una settimana. Comunque anche il costo della vita in una capitale europea come Madrid ti permette anche di vivere senza doverti porre troppi problemi, che in una città, il mio esempio di Bologna è molto più cara di Madrid, per esempio, offrendomi meno. E poi Alessandro, 40 anni, siciliano, a Madrid da 4, è dirigente di un'impresa spagnola. Respiro in Spagna, a Madrid, come dire, un ottimismo, è un po' quello che diceva Claudio, una voglia di divertirsi, di apertura proprio in generale verso tutto quello che non è omologato, che in Italia non trovo più, quantomeno nel nord Italia. Quindi mi spingeva a venire in Spagna, come dire, un po' quasi un ritorno alle origini, perché trovo molto più simile Madrid alla Sicilia che ho vissuto io quando ero piccolo che non tutto il nord Italia, e quindi tema eminentemente personale. Anche tu sei arrivato qui nel 2007, gli ultimi fasti, no, di una crescita che sembrava non finire mai e poi il crollo. Come l'hai vista cambiare la Spagna? Madrid ha investito e speso moltissimo sulle Olimpiadi e si è rifatta veramente il look. Quindi io quasi Madrid l'ho vista molto migliorare rispetto a 3-4 anni fa quando sono arrivato. Vivo nel mondo della comunicazione digitale che non soffre questa crisi in maniera profonda. Quindi mi trovo a che fare con un mondo che è un pochettino differente da quello che sono gli stereotipi della Spagna in questo momento, perché non c'è crisi in questo settore. E oltretutto qui hai anche, per gli italiani che vengono a lavorare in Spagna, c'è una tassazione che è del 24%, molto bassa, e che ti aiuta anche nei primi tempi, per i primi 5 anni sei anche avvantaggiato. E c'è un'apertura in generale che tu noti totale, sia da parte, tra virgolette, delle istituzioni che da parte poi delle persone, quantomeno qua a Madrid. L'impressione è che comunque sia ci sia gran voglia da parte degli italiani o comunque delle persone che conosco io di venire qui e di andare via dall'Italia, perché la situazione che credo si vive in Italia è di un pessimismo di fondo molto più forte rispetto a quello che si respira qui. E con una riflessione forse amara, forse anche un po' cinica, che chiudiamo la serie di 4 reportage dedicati alla Spagna nell'anno del voto. A Madrid l'aria resta pesante dal punto di vista economico, la disoccupazione è alta, troppo alta, ma l'infrastruttura sociale, se così la possiamo definire, resta fondamentalmente sana, pronta chissà pure al rimbalzo, non appena le condizioni lo consentiranno. La Spagna ha le basi per ridisegnare il proprio futuro. I giovani italiani a Madrid, ma non solo, lo percepiscono. È questa la calamita che continua ad attirarli. Le loro parole sono inequivocabili e lanciano un segnale d'allarme sulla condizione del nostro paese. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.